got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. Allora sediamoci anche noi a tavola per questo invito a cena di Radio 24, sempre in compagnia di un ospite italiano con radici straniere. In questo caso diamo il benvenuto ad Anna Pan. Ciao Anna, buonasera. Buonasera. Questa voce bella, squillante, giovanissima, è in effetti di una giovanissima. Anna è studentessa del liceo scientifico Antonelli di Novara ed è vincitrice delle Olimpiadi delle Neuroscienze 2014. E sì, è giovanissima, perché tu cos'hai, 17 anni? Sì, 17. Parliamo con te questa sera non solo perché appunto sei molto brava, hai fatto onore all'Italia con questa vittoria, ma anche perché i tuoi genitori sono cinesi. Mm. Mentre tu sei nata in Italia, è così? Sì, sì, giusto. Raccontaci un po' questa avventura. Tu sei una studentessa del liceo e come è capitato di concorrere per queste Olimpiadi? È iniziato tutto per caso, perché la nostra scuola aveva partecipato già alle Olimpiadi l'anno precedente e un ragazzo era riuscito ad arrivare alla fase nazionale. Allora la mia prof di scienze ci ha invogliati a partecipare. Ho iniziato a guardare un po' di cosa si trattava e da subito mi sono affascinata, perché ovviamente le neuroscienze, il cervello è una cosa che ci riguarda da vicino, perché è l'organo che ci rende quello che siamo. Da sempre infatti il cervello affascina l'uomo, no? È grande, sì, poco più di un pugno, ma è l'organo più importante del nostro corpo, da cui nasce il pensiero ovviamente, ma anche le nostre percezioni, il nostro comportamento. E tu ti sei appassionata a questo studio? Sì, fin da subito. E poi ovviamente una volta che si inizia a conoscere di più si vuole sempre andare avanti. Tra l'altro questo studio che spazia dalla genetica all'immagine cerebrale fino alla psicologia negli ultimi tempi è sempre di più valorizzato, quasi a discapito della psichiatria che insomma sta perdendo punti, sta arrancando dietro le neuroscienze, è così? Diciamo in parte sì, cioè prima la neurologia e la psichiatria erano considerate la stessa cosa, mentre adesso penso che le neuroscienze stiano prendendo sopravvento perché appunto riguardano sì il cervello, ma anche le malattie a esse associate, che purtroppo non hanno una cura, e magari procedendo nello studio si potrà cercare di curarle. Per citarne alcune, l'Alzheimer, il Parkinson o la malattia di Huntington, che sono le più conosciute. Quelle degenerative quindi del cervello. Sì. Se tu dovessi spiegare a un ragazzino appunto che cosa sono le neuroscienze, cosa diresti? Beh, come dice la parola stessa, è la scienza del cervello, ovvero tutto quell'insieme di rami della biologia che studia sì il cervello ma anche il dolore, anche il piacere che riusciamo a provare, o anche il modo in cui o che gestisce il modo in cui, non so, ci difendiamo dallo stress o da tutti quei fattori ambientali che ci destabilizzano. Quindi tu sei andata a queste Olimpiadi, no? Sì. E hai vinto. Sì. È vero che hai mandato subito un sms, ciao prof, ho vinto? Qualcosa del genere, sì. L'ho scritto, prof non ci crederà mai, ma sono arrivata prima. Una bella soddisfazione, insomma. Sì, sì. E poi hai continuato, perché sei andata la scorsa estate poi a Washington, no? Quindi hai rappresentato l'Italia negli Stati Uniti. Sì, è stata la competizione internazionale. L'International Brain Bee Competition, no? Una sorta, sì, di campionato del mondo per aspiranti scienziati. Sì. E com'è andata? Diciamo che per quanto riguarda il punteggio sono arrivata prima in Europa e sesta nel mondo, però al di là della gara in sé è stata un'esperienza sicuramente, cioè, unica e indimenticabile, perché ho potuto conoscere appunto ragazzi provenienti da tutto il mondo che condividevano appunto la mia stessa passione, e abbiamo potuto scambiarci le nostre idee e appunto la nostra passione. Il podio l'hai sfiorato, ma non ci sei arrivata, come mai? Diciamo che è stata per l'emozione. In pratica c'era una prova con dei pazienti e purtroppo ho invertito l'ordine con cui dovevo scrivere le risposte e ho perso tantissimi punti, però pazienza. Quindi proprio il cervello, l'emozione ti ha giocato un brutto scherzo. Purtroppo sì. Questa esperienza internazionale e anche la vittoria precedente credo che ti abbiano fortificato ancora di più nelle tue scelte future, perché mi dicevi che anche all'università vorrai continuare questo studio. Cioè, mi piacerebbe. Il mio sogno sarebbe entrare in medicina e poi probabilmente specializzarmi in neurologia, però si vedrà. Sì. Anche al liceo saranno stati molto contenti di questo tuo successo, perché è un successo anche per l'istruzione, per il modello di istruzione italiano, no? Quello di portare avanti studenti così, così bravi. Tu in classe sei un'eccezione o sei la regola? Nella mia classe potrei dire che sono quasi la regola. Sì, alla fine siamo un liceo, quindi tutti vogliono dare il meglio di sé. Sicuramente, dicevamo, un successo per la scuola italiana in questo senso, un successo anche per, diciamo, i figli di stranieri in Italia. Tu sì, ti senti parte di queste seconde generazioni, ti senti completamente italiana? Beh, diciamo che è difficile da dire sentirsi italiano, sentirsi cinese, cioè io mi sento ormai mi sento quasi del tutto integrata, però dall'altra parte non voglio lasciare da parte le mie radici, perché sono ciò che mi rendono quel che sono. Un gran successo anche per tutti i giovani, i ragazzi che hanno origini straniere e che vedono magari in persone come te la possibilità di raggiungere dei sogni, no? Tu senti, sì, il peso di questa responsabilità? Sì. Ci fermiamo brevemente, siamo ancora con voi tra pochissimo, continuiamo a parlare con Anna Pan, studentessa del liceo scientifico di Novara e vincitrice delle Olimpiadi delle Neuroscienze 2014. Digital Radio. Radio. Flash. Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Fede che ha cambiato la mia vita, ma l'inchiostro che guida le mie dita, la mia mano, il polso. Ancora mi scrivo addosso, amore corrisposto, scoppiato di colpo come quando corri Boston. Non è la droga a darmi la pelle d'oca, ma pensare a Mozart in mano, la penna d'oca là, sullo scrittoio a disegnare quella nota. Fa la storia, senza disco, né video, né social. Valium e Prozac non mi calmano, datemi un calamo o qualche penna su cui stampano il nome di un farmaco. Solo l'inchiostro cavalca il mio stato d'animo. Chiamalo ipotalamo, lo immagino magico tipo Dynamo. Altro che Freud, un foglio bianco. Per volare alto lo macchio come l'ala di un albatro. Per la città della china mi metto in viaggio, bravo. Pellegrinaggio, ma non a Santiago, vado a Chinatown. Vago dagli Appennini alle Ande. Bentornati a Indovina chi viene a cena. Siamo con Anna Pan, studentessa, 17enne, italiana ma di origini cinesi. Stavamo parlando con lei dei suoi grandi successi che le hanno permesso di portare anche appunto l'immagine dell'Italia a Washington come campionessa delle neuroscienze e delle proprie origini. No, Anna, stavamo dicendo della propria identità, perché tu hai origini cinesi, ovvero i tuoi genitori sono cinesi, ma sono da tantissimo in Italia. Come sono arrivati qui? Diciamo che sono arrivati qua molto giovani, avevano dei amici che hanno detto che si trovavano bene, quindi hanno voluto provare. Si sono conosciuti poi qua una ventina di anni fa. Da che parte della Cina provengono i tuoi genitori? In pratica il posto si chiama Wenzhou e si trova affacciata sull'oceano. I miei nonni, quindi ogni volta che ne ho la possibilità vado a trovarli. Mi trovo comunque bene perché alla fine ho anche i miei cugini e tutti i miei parenti lì, quindi è un po' come sentirsi a casa anche là. E tu parli il cinese? Sì, cioè so parlare. Ho cercato anche di imparare a scrivere, anche se è un po' difficile. Ti sei mai sentita diversa dagli altri ragazzi proprio perché magari per il tuo aspetto fisico denunciavi, no, il fatto di avere le radici da qualche altra parte? Forse un po' alle elementari, però poi cioè, crescendo mi sono sempre trovata bene e anche le persone che ho avuto al mio fianco cioè, non mi hanno mai fatto sentire diversa. E la mamma e papà che cosa fanno? So che sono ambulanti, che vendono vestiti. Sì. Da queste parti. E loro saranno molto fieri, immagino, del tuo successo a scuola. Cosa ti dicono? Cioè, quando l'anno scorso ho vinto, ma dopo ogni fase erano pieni di gioia. Potevi vedere l'orgoglio che sui loro volti. Cioè, erano veramente contenti. Sono loro che ti hanno spronato a continuare a studiare? Sì, anche. Mi hanno sempre detto che dovevo scegliere io, che comunque avrebbero appoggiato ogni mia scelta. Mi dicevi che il tuo piatto preferito è un piatto tipicamente italiano, come giusto che sia visto che tu sei italiana. Però ci sono piatti della tradizione cinese che tu senti magari perché hanno un odore, un profumo che ti ricorda la tua infanzia. Non so, magari la mamma cucina a casa. Cioè, personalmente amo tantissimo i ravioli cinesi. Mi piacciono perché... Cioè, fin da piccola ho imparato a farli e quindi ogni tanto la domenica mi diverto a cucinarli e poi a mangiarli, ovviamente. Ravioli cinesi al vapore. Jiaozi. Ingredienti per 20 ravioli. 250 g di farina, 150 ml d'acqua, sale quanto basta. Ingredienti per il ripieno. 150 g di carne di maiale macinata, 50 g di gamberi sgusciati, una carota, cavolo cinese, uno scalugno, zenzero fresco, erba cipollina quanto basta, sale e salsa di soia. Per preparare i ravioli cinesi al vapore occorre iniziare preparando la pasta per i ravioli. Disponete la farina a fontana in una ciotola e aggiungete un pizzico di sale. Incorporate l'acqua poco a poco. Mettete l'impasto su una spianatoia infarinata e iniziate a lavorarlo con le mani finché sarà compatto e sodo. Avvolgetelo con della pellicola e lasciatelo riposare un'ora in un luogo fresco e asciutto. Nel frattempo, dedicatevi alla preparazione del ripieno. Tritate finemente il cavolo cinese che avrete precedentemente lavato, tritate la carota e lo scalugno. Sminuzzate anche i gamberetti freschi e aggiungeteli in una ciotola insieme al macinato di maiale. Incorporate poi il cavolo cinese, la carota e lo scalugno. Grattugiatevi sopra lo zenzero fresco. Condite con 2 cucchiai di salsa di soia e aggiungete dell'erba cipollina tritata. Amalgamate bene il tutto e lasciate riposare il ripieno per mezz'ora in frigorifero affinché tutti gli ingredienti si insaporiscano. Trascorso il tempo di riposo necessario alla pasta, stendetela su una spianatoia infarinata e ricavatevi dei dischi di circa 7 cm, aiutandovi con un tagliapasta o un bicchiere. Col mattarello spianate i dischi di pasta ottenuti per renderli ancora più fini. Disponete quindi un cucchiaio abbondante di ripieno al centro di ogni raviolo, inumidite il bordo dei dischi con dell'acqua e chiudete il raviolo a mezzaluna premendo sui bordi per far aderire la pasta. A questo punto mettete un cestelletto di bambù per la cottura a vapore in un wok riempito con circa 1,5 cm di acqua in ebollizione. Foderate il fondo con delle foglie di cavolo e ponetevi i ravioli facendo attenzione che non si tocchino tra loro. Chiudete il coperchio del cestello e cuocete per circa 15 minuti, fino a quando la pasta dei ravioli inizierà a diventare piuttosto trasparente. Irrorateli con della salsa di soia. In Italia anche solo climaticamente si sta meglio. Com'è il clima nella zona della Cina da cui provengono i tuoi genitori? D'inverno fa molto freddo ed estate fa molto caldo. Quindi da questo punto di vista è un miglioramento netto. Sì. Invece che di cosa hai nostalgia di quel posto, della Cina che conosci tu? Stare con i miei cugini, no? Prima dicevamo che sicuramente il tuo successo dipende dalla tua intelligenza, ma anche da un sistema diciamo scolastico che ti ha sostenuto e promosso, no? Quindi è un successo anche del sistema scolastico italiano in un certo senso. C'è stato tempo fa un bel dibattito acceso negli Stati Uniti e anche in Italia poi riguardo a un libro di una professoressa di legge di Yale americana, Amy Chua, di origini cinesi, che si intitolava Il ruggito della mamma tigre. Esaltava il sistema educativo orientale cinese, sostenendo che le mamme cinesi, le mamme tigre, spingono molto i figli, sono molto inflessibili, li spingono ad essere sempre i migliori, a esercitarsi veramente tantissimo per raggiungere ottimi risultati scolastici. È un modello che tu ritrovi anche a casa tua? Tua mamma è una mamma tigre? No, non penso. Cioè, mi esorta a andare bene, però diciamo che non mi sento costretta a studiare ad andare bene, è una cosa che faccio per me. Ma questo modello di genitori che spronano molto fortemente i figli perché migliorino, perché siano i migliori, tu lo ritrovi in Cina? È una cosa diffusa oppure anche qui magari si tratta di un modello così stereotipato? Boh, secondo me è abbastanza diffuso perché alla fine, cioè, secondo me c'è tanta gente, quindi se non cerchi di dare il meglio di te e di far vedere quello di cui sei capace, non riesci a raggiungere gli obiettivi perché appunto c'è tanta concorrenza. Nello zaino i miei pennini e le carte. Dormo nella tenda come uno scout, scrivo appunti in un diario senza web layout. Il luogo non è molto distante, l'inchiostro scorre al posto del sangue, basta una penna e rido come fa un clown. A volte la felicità costa meno di un pound. China Town, il mio Gange, la mia terra santa, la mia Mecca. Il prodigio che dà voce a chi non parla, a chi balbetta. Una landa lontana come un amico di penna, dove torniamo bambini come in un libro di penna. Lì si coltiva la pazienza degli amanuensi. L'inchiostro sa quante frasi nascondono i silenzi. D'un tratto esplode come un crepitio di mortaretti, come i martelletti dell'Olivetti di Montanelli. Le canne a punta cariche di nero fumo. Tu, Anna, come hai avuto la cittadinanza? Non per nascita, perché questa non è la legge italiana, anche se sei nata qui. L'hai avuta dopo un po' di tempo? In realtà la devo richiedere a 18 anni, perché prima non si può avere. Quindi tu sei ancora in attesa di cittadinanza italiana? Sì. Nonostante questo hai rappresentato l'Italia. Come è stato possibile burocraticamente? Beh, in realtà c'è... Non è tanto rappresentare l'Italia, ma quanto rappresentare la scuola italiana. E siccome ho sempre frequentato una scuola italiana, la cosa è sorta spontanea. Quindi tu sei da sempre in Italia, sei nata in Italia, vivi qui da 17 anni, hai fatto le scuole qui e nonostante questo sei cittadina cinese. A quanto pare, per la legge sì. Sono diretto a Chinatown, vado dagli Appennini alle Ande, nello zaino i miei pennini e le carte. Scout, scrivo appunti in un diario senza web layout. Chinatown, il luogo non è molto distante. L'inchiostro scorre al posto del sangue. Basta una penna e rido come fa un clown. A volte la felicità costa meno di un pound. E con l'inchiostro che ho composto ogni mio testo, ho dato un nuovo volto a questi capelli da Billy Preston. E il prossimo concerto spero che arrivi presto. Entro sudato nel furgone, osservo il palco spento, lo lascio lì. Chiederai ovviamente la cittadinanza quando compierai gli anni? Beh sì, a 18 anni sì. E speriamo insomma che ti venga data d'ufficio a questo punto, per meriti scolastici. Sì. Speriamo. La cucina cinese è legata alla filosofia e alla medicina. Distingue gli alimenti yin, femminili, umidi e teneri, dunque rinfrescanti, come i legumi e i frutti, e gli alimenti yang, maschili, fritti, speziati o a base di carne. Un pasto deve dunque non soltanto armonizzare i gusti, ma trovare un equilibrio tra il freddo e il caldo. Un'altra caratteristica della cucina tradizionale cinese è l'assenza di prodotti lattieri, a causa di un'intolleranza al lattosio che esiste in numerosi paesi asiatici. La successione cronologica dei piatti che si conosce in Italia e negli altri paesi occidentali, nella cucina cinese è sostituita da una ricerca di equilibrio, a partire dai 5 sapori di base: dolce, salato, acido, amaro, piccante. Non si può parlare di una cucina cinese, ma di 4 tradizioni culinarie molto diverse. La cucina settentrionale o pechinese, che si caratterizza per il largo uso di pasta, ravioli e tagliatelle. È una cucina non grassa che fa largo uso di manzo e agnello. La cucina del nord è famosa anche per l'anatra laccata, piatto molto complesso e raffinato. I piatti meridionali o cantonesi sono quelli che più si avvicinano a quelli proposti dai ristoranti cinesi nostrani. I piatti tipici sono il pollo al limone e il riso alla cantonese. Questa cucina fa largo uso di ortaggi e di riso e della cottura in olio bollente in modo da rendere croccanti i cibi. La cucina cinese orientale o di Shanghai è caratterizzata dalla grande presenza dell'acqua con frutti di mare e crostacei, ma anche carpe e altre varietà di pesce. Qui la cottura è più lenta rispetto al resto del paese, con largo uso dei bolliti, degli stufati e dei brasati. La cucina occidentale, o del Sichuan, è quella che più si avvicina alla cultura indiana e del centro Asia in genere. I piatti sono più speziati e piccanti, con largo uso del peperoncino e del pepe. Uno dei piatti caratteristici è il mapo tofu, del tofu piccante. Per i cinesi più poveri, un pasto si riassume in un piatto di pasta o di riso, ravvivata da qualche verdura o boccone di carne. Ma in occasione delle feste o quando si ricevono ospiti, ognuno si sforza nei limiti dei suoi mezzi di dare sfoggio di abbondanza. Assai spesso il cibo è una questione d'onore e senza dubbio il primo segno di appartenenza sociale. Grazie Anna, grazie per essere stata con noi, in bocca al lupo per i tuoi studi. Grazie. Grazie ad Anna Pan, studentessa e vincitrice delle Olimpiadi delle Neuroscienze 2014, speriamo prestissimo cittadina italiana. Grazie a Filippo Aureggi in regia, a tutti voi per l'ascolto, io vi do appuntamento a sabato prossimo, buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. You've got to give a little. That's the glory.